La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, il nostro settimanale di cinema, l'ora di cinema di Radio 24. Arriva la fine dell'inverno, stanno per arrivare gli Oscar, è il momento in cui la pista di lancio dei film in uscita in Italia è sempre più piena. 9 le pellicole nuove che escono in questo fine settimana, chiaramente non riusciremo a parlare di tutte, abbiamo dovuto fare una selezione, e questo a fronte invece di un periodo iniziale di questo 2010 nel quale si faceva fatica a mettere insieme 2-3 film la settimana. Beh, insomma, le cose vanno così, noi abbiamo scelto, penso, il meglio, allora riepiloghiamo tutto nei nostri titoli di testa. Pupi Avati alla Rosa Purpurea racconta il suo nuovo film, Il figlio più piccolo, l'amara fotografia di un'Italia che non va, esordio drammatico per Christian De Sica. Torna L'uomo lupo, Wolfman. A 70 anni dall'originale, la Universal ripropone uno dei capolavori delle origini horror. Protagonisti Benicio del Toro ed Anthony Hopkins. Dopo il successo di Torino e il passaggio a Berlino, esce nelle sale italiane La bocca del lupo, esordio di Pietro Marcello. Viaggio nell'amore fra un ex carcerato e un transessuale tra i Carruggi di Genova. Quando gli Oscar sono un affare di famiglia, comincia il viaggio di avvicinamento della Rosa Purpurea alla notte delle statuette. E allora cominciamo subito con Wolfman, che è il film candidato, pensate, a scalzare Avatar dalla vetta della classifica di questo weekend. Ovviamente parliamo in maniera relativa, però insomma per il momento nessuno ce l'ha fatta, vedremo fra poco anche con la classifica del box office della scorsa settimana, e forse Wolfman può essere il film giusto perché ha un alto tasso spettacolare e quindi si rivolge a un pubblico molto ampio, anche se il numero di sale in cui esce non lascia presagire molto bene. Sono poco meno di 400, tutto sommato forse sono ancora di più quelle in cui si può vedere Avatar. Comunque arriva L'uomo lupo, 70 anni dopo il capolavoro di George Wagner e Kurt Siodmak, Joe Johnston firma questo quasi remake che si basa su quella sceneggiatura, cambiandone però alcuni elementi fondamentali. Mio padre lo trovò 25 anni fa. Era stato smembrato e divorato. Chiunque fosse stato era enorme e i pallettoni non lo abbattevano. Allora mio padre tornò a casa e fuse delle pallottole d'argento. Non uscì più di casa con la luna piena da quel momento. Siamo ormai nella frequentatissima dal cinema Inghilterra vittoriana. Lawrence Talbot, Benicio del Toro, è un attore di successo, tornato dall'America dove era cresciuto con uno zio dopo la tragica morte della madre. A Londra, per uno spettacolo, Lawrence fa visita all'anziano padre, Anthony Hopkins, nel castello di Blackmoor, richiamato anche dalla lettera di Gwen, la fidanzata di suo fratello, del quale da parecchi giorni si sono perse le tracce. Sulla sparizione sta già indagando l'ispettore Alberline di Scotland Yard, ma ancora la polizia brancola nel buio, il buio dei boschi circostanti Blackmoor, boschi infestati da qualche tempo da un misterioso assassino che riduce in brandelli le sue vittime. Ecco, il ritorno del figlio al prodigo. Buongiorno, padre. Sei qui per il funerale. Cos'è accaduto? Hanno trovato il corpo di tuo fratello in un fosso. È stato fatto a pezzi. Se posso fare qualcosa per te, ti prego di dirmelo. Voglio sapere che cosa gli è capitato. Francis Eberlein, Scotland Yard. Insisto nel dirvi che siete in pericolo di morte. Che razza di animale può aver fatto una cosa simile? Stai rischiando la vita. L'oscurità è su di te. Nel corso delle sue ricerche, Lawrence viene a conoscenza di un'antica maledizione che colpisce il villaggio nelle notti di luna piena e che trasforma chi ne viene colpito in un lupo mannaro. Lawrence cerca risposte in un vicino accampamento gitano, ma una volta arrivato tra gli zingari, la belva torna a colpire. Sei stato morso dalla bestia. Porti il suo marchio ora. Tu credi nelle maledizioni? Devi andare via. Di che cosa hai paura? Ci sono coloro che dubitano del potere di cambiare gli uomini in bestie. Una bestia è arrivata tra noi. Atti orribili, Lawrence. Hai compiuto atti orribili. Lorenz ormai è contagiato, d'ora in poi anche lui, una volta al mese, nelle notti di luna piena, si trasformerà e diventerà un pericolo per se stesso e per chi gli sta vicino. Invano la polizia e la medicina ufficiale cercheranno di fermarlo, e mentre le verità nascoste sulla sua vita e sulla sua famiglia vengono a galla, solo un sacrificio d'amore potrà salvarlo. Per inquadrare criticamente questo Wolfman vale la pena ricostruire le sue travagliate vicende produttive. Doveva dirigerlo Mark Romanek, che abbandonò all'inizio del 2008 per divergenze artistiche, da lì in poi girandola di ipotesi per la regia, con il film fermo, e alla fine arrivò Joe Johnston, mestierante di genere ma non certo un talento memorabile, visti i risultati di film come Rocketeer o il terzo capitolo di Jurassic Park. Cambio della guardia anche per la sceneggiatura e poi ancora per la musica. Perché diciamo tutto questo? Perché quando un film passa da una mano all'altra, di solito qualche impurità, qualche residuo, qualche nodo irrisolto si deposita nel meccanismo narrativo. Nel caso di Wolfman sembra irrisolta la direzione che il film vuol prendere: grande spettacolo gran grandignolesco con budella esposte e arti strappati, o shakespeariana riflessione sull'essere e il non essere di un uomo lupo? In fondo Wolfman, pur ben girato, soffre di tutto il déjà vu che sull'uomo lupo il cinema ha generato, a partire dal film del 41, alle incursioni di John Landis, al Wolf di Jack Nicholson, ai licantropi del recente New Moon, e non riesce nell'operazione di svecchiamento del classico di cui, per fare un esempio, è mirabile episodio il recente Sherlock Holmes. Tradire per rileggere il mito doveva essere la missione, e invece si è scelta la strada più comoda di una tradizione stereotipata. Uno sguardo alla classifica prima di dare le ultime notizie sul traffico. Dicevamo, Wolfman candidato a scalzare Avatar dalla testa della graduatoria, ma Avatar ancora la settimana scorsa, dopo ben 5 settimane di permanenza in vetta alla graduatoria, ha incassato quasi 4 milioni nel weekend, quindi non è mica detto che le cose vadano così. È partito bene Moccia, non ne avevamo dubbi, 2 milioni e 9 col suo Scusa ma ti voglio sposare al secondo posto. Terzo, Paranormal Activity, che si è bruciato in un weekend, diciamo così. Resiste al quarto posto Baciami ancora, mentre esordisce al quinto Amabili resti di Peter Jackson. La rosa purpurea. Di nuovo insieme alla Rosa Purpurea per parlare di quella che secondo noi è l'uscita per molti versi più interessante di questo fine settimana. Stiamo parlando del ritorno del prolifico Pupi Avati, a poco meno di un anno dagli amici del Bar Margherita. Il figlio più piccolo, con Christian De Sica, Laura Morante e Luca Zingaretti, è però un film di rottura nella filmografia del maestro bolognese. Stoppa la nostalgica ricostruzione di un passato autobiografico e obiettivo puntato sull'Italia di oggi, con amarezza. Ecco la storia. Baldo, Nicola Nocella, è il figlio più piccolo di Fiamma e Luciano, rispettivamente Laura Morante e Christian De Sica. Baldo ha visto suo padre e sua madre sposarsi in fretta e furia nel 92, quando lui e suo fratello Paolo erano già grandicelli. L'immagine che rimase impressa sullo schermo della mente di Baldo fu quella del padre che fuggiva in macchina dopo le solite raccomandazioni, lasciando Fiamma in lacrime, presaga di una vita che non sarebbe stata rose e fiori. E infatti non lo è stata. In quel fascio di documenti che Luciano stringeva c'erano tutte le proprietà immobiliari di Fiamma, che di lì in poi avrebbe vissuto non di stenti ma di espedienti, struggendosi nell'attesa del ritorno, crescendo due figli e perdendo un marito. Ritroviamo i protagonisti ai giorni nostri. Paolo lavora in un bar del centro di Bologna e se potesse ammazzerebbe il padre. Baldo, il figlio più piccolo, è più accondiscendente. Timido e sognatore, studia cinema ed è la stampella della mamma, che si è inventata una fallimentare carriera, si fa per dire, di cantante folk neo-hippie. Fiamma vive in apnea fra una crisi di nervi e l'altra. Nella campagna laziale, invece, Luciano fa il signore. Fa, non è. Dalla sua lussuosa villa comanda le spericolate operazioni finanziarie della Baglietti Enterprise, impresa di palazzinari senza scrupoli che, coi suoi loschi traffici, le raccomandazioni e le connivenze, ha costruito un impero immobiliare. Deus ex machina della Baglietti è Sergio Bollino, Luca Zingaretti, uno con un gomitolo di peli sullo stomaco, a suo agio nei mari tempestosi della finanza furbetta. Ma sono tempi duri anche per gli squali. L'impero comincia a vacillare e forse a questo punto è il momento di tornare alla famiglia. Sei capace di dire in segreto? Sì. Guarda che lo sei solo tu, eh? Devi giurarlo su tua madre, perché se lo sanno prima ci possono massacrare. Lo giuro. Mi ritiro. Cioè? Ti passo la mano. Quale mano? Tutto quello che c'ho. Domattina andiamo dal notaio e firmiamo. Sei mio figlio. Sì. E allora da domani è tutto tuo. Baldo accetta nella sua ingenuità che rasenta la stoltezza. Accetta perché vede nel nuovo ruolo la possibilità di realizzare il suo sogno di celluloide. Accetta e non vede tutto il marcio che sta per cadergli addosso proprio da quel padre che lui per primo aveva perdonato. Ma come avete fatto ad assumere una decisione così radicale? Senza prendervi la briga di informare il Consiglio. Senza neppure metterla sull'ordine del giorno. Ma il nuovo presidente lo sa che dagli ultimi accertamenti risulta che la holding ha evaso il fisco per più di 55 milioni di euro? Non tieni conto dei condoni. Considerati tutti i condoni. No, sono più di 55 milioni di euro. È da erogarsi in un'unica soluzione. Ma li devi dare tu? No, tu. Io? Ma come faccio? Le illusioni crollano, la verità si abbatte sulle anime perse dei protagonisti, niente sarà più come prima, forse sarà meglio. Fuoco che tu sei, terra che sarà. E sul brano Il figlio del vento che Omar Pedrini ha composto appositamente per questo film, a proposito l'ex cantante dei Timoria recita nel film il ruolo di un musicista di matrimoni e che saluto perché è un grande ascoltatore di questo programma, beh, passiamo ad analizzare questa nuova pellicola firmata Pupi Avati. Nella filmografia variegata e stratificata del regista bolognese, il periodo horror, quello minimalista, quello jazz, L'amarezza aveva già fatto più che capolino in capolavori come Regalo di Natale o Festa di Laurea. Qui però è il sapore pregnante di tutto il film, un film senza illusioni, sin dall'inizio, che fotografa l'Italia di oggi partendo da quella di uno ieri non ancora sbiadito, quell'inizio degli anni 90 che con Tangentopoli e la caduta della Prima Repubblica aveva fatto respirare al paese un'aria nuova. Speranze mal riposte, sembra dire Avati, che racconta le spregiudicate e volgari peripezie finanziarie e umane di una classe dirigente che ruba come quella precedente, ma senza averne la stessa classe. Basta aprire i giornali per leggere di mazzette ritirate nei pacchetti di sigarette, tempismo perfetto. Il figlio più piccolo è il nostro, il vostro, il rappresentante di una generazione tradita alla quale non stiamo lasciando nient'altro che macerie. Difficile costruirci sopra. Gli attori, bene Laura Morante, benissimo Luca Zingaretti, convincente l'esordiente Nicola Nocella, ma il capolavoro Pupi Avati, uno dei più grandi direttori di attori italiani, lo compie con Christian De Sica, aprendo al re del cinepanettone la porta di una carriera drammatica, così come aveva fatto più di 20 anni fa con Diego Abatantuono. Missione compiuta, Christian regge, non gigioneggia, a tratti emoziona. Sei ancora una bella donna. Oh, oddio, proprio oggi che sono orrenda. Ci avrete ancora il bagno? Il bagno? Certo. È qua. È qui. Ah, la luce. Ah, questo ce l'hanno regalato a Natale a tutti, il direttore del carcere. Grazie. Chiudo, eh? Certo. Mi riprendi nel tuo lettone? No, figurati, non ce l'ho neanche. Ci abbiamo fatto i nostri figli. Ma sai che mi hanno portato via tutto? Che dovrei rimanere qua per un anno senza mai uscire. Cosa abbiamo fatto a te? Abbandoniamo per il momento il figlio più piccolo di Pupi Avati perché fra poco c'è l'intervista con il regista bolognese e apriamo invece una parentesi sul DVD Game, sul nostro gioco che ogni settimana vi permette di vincere straordinari film in DVD o Blu-ray. Cominciamo ad ascoltare la prima di 3 tracce di un film misterioso che dovrete indovinare. Sentiamo. E niente munizioni. Morto non ci serve a niente. Ti vuoi rilassare? Mi taglia i nervi. I miei uomini l'hanno già fatto 100 volte. Abbiamo chiesto a spettolare. L'abbiamo localizzato nel quadrante D9.Yucatan BK034. Sarà una cosa rapida. La Rosa Purpurea, @radio24.it. Se avete già indovinato di che film si tratta, più tardi, altre 2 possibilità. E noi continuiamo a parlare, come dicevamo, del figlio più piccolo perché è arrivato il momento di ascoltare Pupi Avati. In una notte di neve, Bologna ha ospitato la prima del suo film. Ecco il risultato del nostro incontro. Sala Lumière della Cineteca di Bologna con Pupi Avati, qui alla Rosa Purpurea per parlare di questo film, Il figlio più piccolo. Pupi, la possiamo vedere come una pellicola che racconta un tradimento, cioè il tradimento di una generazione verso un'altra generazione? Ma io penso che più di una generazione, perché sono molte le generazioni che hanno commesso probabilmente questo tradimento, il tradimento di un atteggiamento culturale che la società ha sempre più facilmente legittimato e che si è diffuso a tutti i livelli, che non è che è da imputarsi soltanto alla politica, che forse è stata la cattiva maestra che in qualche modo ha diffuso, ma questa idea che conseguire un risultato sia sufficiente per giustificare il percorso che si è fatto, ecco, questa secondo me è l'idea più scorretta del mondo, che è stata però la lezione, la cattiva lezione che è stata trasmessa. Io contro questa cattiva lezione metto in campo due titolari di ingenuità, innocenza e candore, che sono invece agli antipodi, che non sono convinti che appunto il risultato giustifichi il modo attraverso il quale lo si è conseguito, ma al contrario sono ostinati portatori di un convincimento, di un sentimento, di un sogno, ecco, nei riguardi della donna, di un amore, e anche nei riguardi del figlio, di un amore, di una figura paterna che, per quanto così indecente, lui continua ostinatamente a amare. Questo rapporto, questo tipo di personaggio, un tipo di personaggio che è assolutamente ricorrente nei miei film. Io, se vado indietro nel tempo, 1983, gita scolastica, mi trovo Carlo Delle Piane, che è assolutamente figlio più piccolo, e così via, attraverso Marco Re, Albanese, Orlando. Sono tutti personaggi che sono portatori di una grandissima ingenuità. Perché? Perché io sono così. Tu sei un grande narratore, una delle doti che ti viene proprio riconosciuta è quella, no? Quella di saper raccontare storie. Non so se la ritieni una critica. Io in questo film ti ho visto meno narratore e più impressionista, cioè ho visto che hai raccontato quasi in maniera astratta dei personaggi, estrapolandoli da una trama, ma raccontandoli anche un po' i loro sentimenti. Cioè, era questo il tuo intendimento? Beh, il mio intendimento era quello di, soprattutto per quello che riguarda il cotè negativo della storia, era quello di illustrare più che di intervenire, cioè di mostrare come se fosse in una forma dove si fosse introdotto in quei consigli di amministrazione in modo assolutamente occulto e misterioso una telecamera che in qualche modo riprendeva quello che non era legittimo o lecito riprendere, quindi doveva avere l'idea di una verità assoluta, di un documento assoluto, quindi è evidente che la mia partecipazione emotiva lì è zero. Dopo questo film guarderei ancora l'oggi, perché hai ritrovato interesse per raccontare il quotidiano, l'oggi, il nostro tempo? Posso dire che l'oggi è diventato estremamente stimolante, mentre anni fa l'oggi mi sembrava sbiadito, grigio, di scarso e poco interesse. Oggi purtroppo, ahimè, la realtà è continuamente si ripropone con delle vicende, con delle storie, con dei misteri, la realtà italiana così così imprevedibili, per cui ecco, non occuparsene, voltare la testa, guardare al bar Margherita diventerebbe forse probabilmente grave per chi come me ha a disposizione un mezzo attraverso il quale esprimere opinioni o sensazioni. Cristian De Sica, esperimento riuscito? Beh, da quello che mi dicono gli altri, per quello che mi riguarda, io dopo due giorni sapevo che Cristian ce l'aveva fatta. Era un'impresa ardua, perché bisognava assolutamente spogliarlo da quello che era quel modo di vederlo che gli derivava da 27 anni di cinepanettoni, e renderlo verosimile quel contesto là. Ma dopo due giorni sapevo che ce l'avevamo già fatta. Poi in queste ore ho avuto assolutamente la conferma. A te. Ed ecco quindi Pupi Avati e la Rosa Purpura, che ha raccontato un po' il suo film, Il figlio più piccolo, e tutto quello che ci gira intorno. Noi cambiamo argomento e cambiamo film, perché come ho detto, 9 pellicole, almeno di 4 vogliamo parlarvi in questa nostra puntata. Arriva nelle nostre sale Il missionario, diretto dal francese esordiente Roger Delattre. È una commedia degli equivoci che ha come protagonista un sacerdote. Lo ha visto per noi Barbara Righini. Ma che ci fai qui? Sono uscito stamattina. Di già? Sì, anche a me è sembrata breve, volevo chiedere un prolungamento. Ma no, non volevo dire questo, io pensavo che ne avessi ancora per 2 o 3 anni almeno. Mi hanno ridotto la pena, buona condotta. Già, Mario sarà anche uscito per buona condotta, ma i suoi ex amici criminali con cui lavorava non si sono affatto ricreduti negli ultimi 7 anni. Allora Mario si rivolge all'unica persona di cui si fida, il fratello Patrick, per chiedere un riparo. La soluzione è presto detta. Patrick è parroco e pensa di nascondere il fratello da un amico prete in un paesino sperduto della Francia. Peccato che quando Mario arriva a destinazione, padre Etienne è appena morto e il protagonista viene scambiato dai paesani per il nuovo parroco. Buongiorno, padre Mario. Ma che che vogliono adesso? Oggi è sabato. Ah sì? E allora? Sabato ci si confessa, domenica c'è la messa. E il lunedì? Ci si alza a mezzodì. Buongiorno, buongiorno. Ragazzi, ho un'ora di tempo. Quindi al massimo potete confessare un peccato a persona, va bene? Se Mario può fare il prete, ed a tutti gli effetti lo fa, con la sincerità d'animo che compete al ruolo, allora Patrick, il fratello, può sbrigare qualche faccenda per lui, come recuperare un gran mucchio di gioielli nascosti prima di finire in gattabuia e contrattare con i ricettatori per monetizzare la refurtiva. Nell'inversione dei ruoli, poi, anche il miglior pastore può perdere la retta via. Pronto, sì? Sta calmo e parla poco, andrà tutto bene. Ti proporrà una cifra per i miei gioielli. Tu lascialo parlare, ma non devi scendere al di sotto di... Scusami, puoi ripetere per favore? Ho detto, non devi scendere al di sotto di un... Devo andare adesso. Buona fortuna e prega, figliolo, eh? Pronto? Una commedia degli equivoci, inizialmente simpatica e poi sempre più scontata. Il film, pur avendo ritmo, non riesce a catturare fino in fondo l'attenzione e più i minuti passano, più diventa facile prevedere lo snodo successivo. Ben interpretato il protagonista Mario, affidato alle capacità attoriali di Jean-Marie Bigard, un personaggio spigoloso ma in fondo buono. La rosa purpurea. Ti amo, amore. Come tu sembri amata, stronza. Siamo vita. Quando l'ho conosciuto non avrei mai immaginato che nascesse l'amore fra noi. Ciao, dolcissima, carnalissima, amore mio, come stai? Ti adoro, dolcissimo bastardo. A leggi, ma faccio io. Écoute ma voix, écoute ma prière, écoute mon cœur qui bat, laisse-toi. Eccoci qua ancora insieme. La canzone che state ascoltando è L'eau à la bouche di Serge Gainsbourg, straordinario brano scelto da Pietro Marcello all'interno del contesto di questo film, insomma, difficile da definire, perché è un film dove succede un po' di tutto, dove c'è un impianto stilistico molto molto particolare, dove ci sono protagonisti che nel cinema certo non vediamo tutti i giorni. Insomma, ne vogliamo parlare di questo La bocca del lupo, che è, tra l'altro, dopo aver vinto il premio per il miglior film al Festival di Torino, reduce anche dal Festival di Berlino. Insomma, come dire, un'escalation importante per questo film di Pietro Marcello, che è in collegamento con noi qui alla Rosa Purpurea. Ciao Pietro! Ciao, buonasera a tutti. Eccoti qua, eccoti qua. Allora, com'è andata a Berlino? Veramente sono a Bologna e sono tornato da poche ore a Berlino, perché abbiamo vinto il Forum di Berlino. E beh, questa è una notizia che ci dà, insomma, molto importante. Il Forum, che è una delle sezioni, diciamo, più, fra virgolette, sperimentali, insomma, dove si vede un cinema non particolarmente mainstream, ma sempre molto interessante. Ecco, parlaci un po' di questo film, Pietro, perché La bocca del lupo esce nelle sale cinematografiche italiane, in alcune sale cinematografiche, purtroppo non è una distribuzione, come dire, a tappeto, ecco, tutt'altro, però, insomma, nelle grandi città lo si può trovare. Come è nata quest'idea e come hai lavorato a questo progetto, che definire originale è poco, una storia d'amore raccontata con un taglio, come ho detto prima, di quelli che si vedono poche volte nel nostro cinema? Allora, la genesi di questo film è che questo film è stato voluto fortemente dalla Fondazione San Marcellino, che sono i gesuiti di Genova, che lavorano sul territorio dal dopoguerra, che dopo aver visto il mio film, Il passaggio della linea, il film precedente, Sui treni notte, mi hanno invitato a Genova per realizzare qualcosa assieme a loro, qualcosa in quel raggio d'azione dove quotidianamente operano, nell'assistenza dei senza tetto e dei raminghi della città, questo nell'area dell'Angiporto di Genova. Così che ci siamo trasferiti lì con la troupe, c'è stato un periodo di osservazione all'inizio e abbiamo realizzato questo film assieme. Come hai scelto questa storia? Perché tu racconti, certo, quell'humus che hai appena detto, no? Cioè, diseredati, marginali, ma hai scelto una storia d'amore molto particolare e con due personaggi che, insomma, ti chiedo veramente dove hai preso. Ma guarda, è stato un incontro abbastanza così. Cioè, perché ho incontrato Enzo, che è il protagonista, per strada e subito sono rimasto colpito dal suo volto, che esprime un po' il volto del cinema. E così è iniziata una relazione, un'amicizia, e pian piano siamo riusciti a realizzare questo film. Poi parallelamente ho avuto modo di conoscere Mary, che è la sua compagna, e abbiamo iniziato questo percorso di racconto. L'intenzione era di raccontare un tessuto sociale in quell'area, che è l'area di Via Pre. Enzo è rappresentativo come un residuale di un sottoproletariato scomparso, perché è un'area che ha avuto molti cambiamenti dal dopoguerra in poi, quell'area dell'Angiporto di Genova. Nel senso, c'erano i Camalli nel dopoguerra, sono andati via i Camalli, che erano gli scaricatori, i genovesi, sono arrivati i meridionali, poi sono andati via anche i meridionali, sono arrivati gli extracomunitari. E questo tessuto sociale non si è mai creato in questi ultimi anni, in questi ultimi 50 anni. E Enzo è rappresentativo di un tessuto sociale scomparso di quella zona. Senti, la cosa che colpisce in questa storia sono i desideri di questi due protagonisti. Questo ex carcerato che torna appunto in questi vicoli e questo transessuale che è diventato la sua compagna da tanti anni, che l'ha aspettato con un atto d'amore straordinario. E i loro sogni sono una casetta tranquilla con i loro cagnolini a vista mare. Ecco, è bello proprio questo accostamento, no? Tra una realtà così rude e sogni così normali, se vogliamo, no? Sì, questo sicuramente è vero, è il loro desiderio di una casa in campagna, ma è anche un desiderio collettivo, è anche il mio desiderio di una casa in campagna e di tanti altri. È un po' anche il problema di vivere in città, perché le città stanno cambiando, si trasformano quotidianamente ed è sempre più faticoso, specialmente per i miei protagonisti, che hanno avuto una vita difficilissima. E questo amore è nato proprio nella diversità e nel bisogno di aiutarsi e di proteggersi dalle malvagità della vita. E allora ricordiamo La Bocca del Lupo. Abbiamo detto, in quante sale, Pietro, in questo primo fine settimana? Per ora sono 7 copie. Sette copie. Sono presenti nelle città capozona. Esatto, le città principali, insomma, diciamo così. Meno male lo si può andare a vedere, La Bocca del Lupo. Un film che, ripeto, al di là poi della struttura, è un film spiazzante ovviamente per un pubblico mainstream, diciamo così, però ha un aspetto, ripeto, di mano, di stile, che è davvero originale e straordinario, per il quale facciamo i complimenti a Pietro Marcello e anche per il successo appunto al Forum di Berlino. A proposito di Berlino, è in collegamento con noi anche il collega Silvio Danese, che saluto. Ciao Silvio. Ciao, come va? Ciao, tutto bene, tutto bene. Sei ancora a Berlino? Sì, sì. Ecco, allora ti raggiungiamo in Germania. Hai sentito forse anche tu Pietro Marcello raccontarci un po' i presupposti del suo La Bocca del Lupo, un film, molto particolare. Infatti, e poi per il cinema italiano, diciamo che sempre i film dicano così tanto, lo ripeto, soprattutto sotto il profilo stilistico. Però a te voglio chiedere invece una visione di insieme, in poche parole, di com'è stato questo Festival di Berlino, che ormai si sta concludendo. Che sensazione hai avuto? Che edizione è stata? Ho l'impressione di un festival nella cosiddetta media, come si dice, mentre si cammina verso il Berlinale Palace tutti i giorni. E c'è un festival in cui si riconosce la tendenza di Berlino, della Berlinale, a cercare un po' in tutte le cinematografie film di una certa rilevanza d'originalità, e nello stesso tempo di riuscire a dare un'idea del momento, del mainstream d'autore. Mi sembra in questo senso che sia stato un festival alla pari di altri, e per questo, diciamo, per questo essere alla pari, Dieter Kosslick, che viene spesso un po' attaccato, ma ingiustamente, mi sembra che ogni direttore, insomma, alla fine raccoglie quello che trova in una delle possibilità. Assolutamente, insomma, il cinema e i festival sono così, c'è l'anno buono e l'anno meno buono, come per il vino o per altri beni di prima necessità. Grazie per questa così, insomma, illuminazione su questo festival, che quindi è stato, insomma, nella media, come ha detto Silvio Danese. Noi a questo punto procediamo invece con la nostra trasmissione e andiamo avanti, perché abbiamo annunciato nei nostri titoli di testa una marcia di avvicinamento alla notte degli Oscar, perché ormai mancano meno di 4 settimane e bisognerà cominciare a presentare un po' quello che potrà succedere. Noi abbiamo chiesto alla nostra Chiara Pizzimenti di darci un po' dei tagli su questa importante iniziativa e manifestazione. Abbiamo cominciato con le famiglie. Ci sono famiglie da Oscar, vere e proprie. Sentiamo perché. Affari di famiglia, la notte degli Oscar, clan sullo schermo e per le vie di Beverly Hills, mariti, mogli ed ex, come sono James Cameron e Kathryn Bigelow, entrambi candidati per la regia e con i loro film Avatar e The Hurt Locker in lizza per il premio più importante. Una famiglia della vecchia Hollywood arriva Jeff Bridges alla sua quinta candidatura, questa volta come miglior attore protagonista per Crazy Heart. Quella che si sente in sottofondo è Michelle Pfeiffer, che nei favolosi Baker cantava insieme a Jeff e al fratello Beau, figli di Lloyd Bridges, già in Mezzogiorno di Fuoco. E a fianco di Jeff in Crazy Heart c'è Maggie Gyllenhaal, candidata come miglior attrice non protagonista e sorella di Jake, già nominato per Brokeback Mountain. Strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! Per gli acchiappa fantasmi, cito Ferrari Reitman, Ivan Reitman, regista del primo Ghostbusters e produttore di Tra le nuvole, candidato come miglior film e diretto da suo figlio, Jason, a sua volta finito in nomination per regia e sceneggiatura. Mamma mia! Meryl Streep e Stanley Tucci, marito e moglie in Julie e Giulia, film che ha portato a lei la candidatura numero 16. Nulla a lui, che ha però la sua prima nomination come miglior attore non protagonista per il ruolo in Amabili Resti, film tratto da un romanzo. E se parliamo di libri, non possiamo dimenticare Leone, Tolstoi e Signora, interpretati in The Last Station da Helen Mirren e Christopher Plummer, entrambi in nomination, la prima per lui. Uno dei padri più noti del cinema, il capitano Von Trapp di Tutti insieme appassionatamente. Insomma, gli Oscar sono anche una questione di famiglie. Noi andiamo un po' in ritardo a giocare con il nostro DVD Game, seconda traccia del film misterioso di questa settimana. La mia promozione! Papà, grazie di essere venuto. Ciao, oh, mamma, che piacere vederti. Bellissima sorpresa. Congratulazioni per la promozione. Grazie. Grazie, Deb. È bello. Secondo me. Congratulazioni, capo. Ti sei ferito al braccio? No, è stato solo un piccolo incidente, tesoro. Adesso vado un attimo in bagno e poi mi occupo degli ospiti. La Rosa Purpurea @radio24.it. Se avete indovinato di che film si tratta, più tardi, anzi fra poco, un'altra possibilità. La Rosa Purpurea. Di nuovo insieme alla Rosa Purpurea, la nostra quarta parte si apre come sempre con le segnalazioni dei film da vedere, rivedere, recuperare, registrare nella programmazione televisiva in chiaro della prossima settimana. E come sempre noi appaltiamo questo importante lavoro di scoperta e riscoperta agli amici della redazione del settimanale Film TV. Sentiamo cosa ci propone oggi Claudio Bartolini. Ciao Claudio. Ciao Franco, ciao a tutti gli amici di Radio 24. In concomitanza all'uscita del film di Pupi Avati, del quale accennavate poco fa, trattasi di figlio più piccolo, ci permettiamo di segnalare un film che andrà in onda su Rai 1 mercoledì 24 febbraio di notte alle 3.25, un film che con la notte si sposa bene perché appartiene al filone del gotico padano, del gotico rurale del maestro bolognese. Il film si chiama Zeder e è datato 1983. Segue di 7 anni il fortunato La casa dalle finestre che ridono, che è autentico cult movie che aveva ridefinito i canoni del genere gotico, del genere horror, ambientandolo nelle soleggiate zone di Comacchio e dell'Emilia Romagna. Leder si sposta a Milano Marittima e mette in scena una serie di eventi paranormali, il ritorno dalla morte degli zombie, terreni K in cui i morti possono risorgere, ma Pupi Avati innova il genere perché appunto lo riveste dei connotati tipici dell'Emilia Romagna, della terra di Casadei e delle Piadine, quindi il sole, il mare, ma un pericolo latente che si annida in mezzo a tutta questa luce. Quindi un cono d'ombra nella produzione cinematografica di Avati, che appunto con La casa dalle finestre che ridono, questo Zeder, l'arcano incantatore in nascondiglio, darà vita a questa piccola nicchia del gotico denominata gotico padano. Grazie a tutti, ciao Franco, alla prossima. E grazie a Claudio Bartolini. Ricordiamo allora Zeder di Pupi Avati su Rai 1 alle 3.25 di mercoledì. A questo punto noi salutiamo Claudio Poffi, che è già in collegamento qui con La Rosa Purpurea per raccontarci i DVD. Ciao Claudio. Buonasera Franco, un saluto agli amici in ascolto. Allora Claudio, cominciamo con l'ascoltare la traccia del film che avevamo fatto ascoltare, con cui avevamo giocato 7 giorni fa. Non è stato lui a creare questo clima di paura, lui l'ha solo sfruttato, con un discreto successo aggiungerei. Cassio aveva ragione. La colpa, caro Bruto, non è nelle nostre stelle, ma in noi stessi. E allora, si trattava di Good Night and Good Luck. Questo era il game della scorsa settimana. I più veloci a indovinare il sabato e la domenica sono stati Alessio Albertini di Belfiore, provincia di Verona, e Dina Malagamba di Bussero, provincia di Milano. Riceveranno il Blu-ray di questo bellissimo film di George Clooney, con anche George Clooney, ma anche uno straordinario David Strathern. Claudio, cosa possiamo raccontare di questa edizione in Blu-ray? Sì, il Blu-ray di Mediafilm offre la visione praticamente speculare a quella cinematografica, la fotografia in bianco e nero è godibile così nel suo pieno fulgore, c'è una doppia traccia audio ad alta risoluzione per l'italiano, ma ampio spazio è stato lasciato anche all'inglese. Sono tanti gli extra, tra cui segnalo su tutti una lunga intervista all'attore e regista George Clooney e il filmato della festa svoltasi presso la Laguna Veneziana in occasione della presentazione del film. E questo quindi il DVD Game della scorsa settimana. Noi invece andiamo ad ascoltare la terza traccia di quello di questa settimana. Sentiamo insieme. Non avevamo un piano. Erano un milione. Così quello che era un campo di accoglienza temporaneo fu presto recintato e poi militarizzato. In breve diventò uno slam. La verità è che nessuno sapeva definire quel luogo. La Rosa Purpurea @radio24.it era l'ultima traccia misteriosa del DVD Game di oggi. Per provare a vincere questo film, scriveteci, come sempre inserite anche il vostro indirizzo, perché così sarà più facile poi eventualmente spedirvi il DVD. A questo punto noi passiamo invece alle recensioni, alle uscite in home video che abbiamo voluto segnalare questa settimana, cominciando subito con un film d'azione, di grande azione, proveniente dall'Estremo Oriente. Si intitola Exiled, ascoltiamo la. Il boss Kang, $150,000. È diventato il gangster più potente di Macao. Le probabilità di uscirne vivi sono scarse. Ci stiamo. Stasera alle 8, al ristorante Yat Chang, qualcuno dirà: ci sono le pinne di pesce cane? Lì cominciate a sparare. Siamo nel 1998 a Macao, il passaggio della colonia portoghese nelle mani dell'amministrazione cinese cambia le dinamiche tra le bande criminali. Wang è arrivato da Hong Kong per prendere il potere e medita vendetta nei confronti di Huo, che un tempo aveva tentato di ucciderlo e ora ha cambiato vita. Manda due killer, amici d'infanzia di Huo, per eliminarlo, ma i due decideranno di ribellarsi agli ordini del boss e aiutare il loro comune amico. Cinema noir made in Hong Kong, tra i migliori realizzati dal cineasta di culto Johnny To, sorta di omaggio sentito allo spaghetti western italiano, al maestro del genere Sergio Leone, di cui il film palesa l'influenza, ma ci sono ulteriori rimandi al cinema occidentale e a un altro maestro assoluto come Sam Peckinpah. La qualità del DVD è veramente notevole, non ho assolutamente nulla da eccepire per quanto riguarda video e audio. Tra gli extra un making of e un intervento del critico cinematografico Fabio Zanello, di cui nella confezione è presente un ulteriore approfondimento testuale. Parliamo dello Spazio Bianco, il film di Francesca Comencini, passato a Venezia lo scorso mese di settembre, uno dei film più belli tra quelli italiani di questa stagione cinematografica. Ascoltiamo. Marito, devi tornare a scuola. È più di un mese che sei chiusa lì dentro. Sono in maternità. E te la prendi dopo, quando Irene esce. E se poi Irene non esce dall'ospedale, me lo ridai te il tempo che non ho passato con lei? Irene esce? Ah sì, certo, scusa, me l'ho distratta. Guarda che non è che se io torno a lavorare poi sto meglio perché mi distraggo. Io non mi posso distrarre. Non so, certo, se ci fosse ancora mamma o papà o solo mamma o solo papà, non lo so, qualcuno a cui mi fregasse qualcosa di me. Maria è una quarantenne single, conosce Pietro, ragazzo padre, e tra i due si instaura una relazione e Maria rimane incinta. Alla notizia il compagno rifiuta di partecipare alla gravidanza, non vuole prendersi responsabilità e quando la bambina nasce prematura Maria dovrà affrontare il calvario dell'attesa da sola. Sua figlia è in un'incubatrice, in uno spazio bianco tra la nascita e il nulla. L'opera di Francesca Comencini sorprende per intensità, coglie impreparati, calando lo spettatore in una suggestiva atmosfera. Emotivamente toccante la storia, grazie soprattutto al contributo di una grande Margherita Buine, appunto nel ruolo di Maria. Qualità del video ottima per questo DVD di 01, oltre alla consueta traccia Dolby Digital, c'è una seconda in DTS con maggiore respiro per i dialoghi. Come extra sono presenti un making of e un'intervista alla regista Francesca Comencini. Animazione digitale ai più alti livelli artistici nella terza proposta fra le uscite di questo weekend. Parliamo di The Skycrawlers di Oshi Mamoru. Ascoltiamo la clip. Per questo possiamo uccidere e essere uccisi. Fa parte delle regole. È un punto di vista interessante. Interessante? Nella sua storia l'umanità non ha mai voluto né potuto eliminare la guerra. Perché è la sua esistenza a dare senso e realtà alla vita degli esseri umani. Avere sempre delle guerre in corso in qualche parte del mondo ha una sua specifica funzione, quella di alimentare l'illusione di pace della nostra società. In un diverso futuro i conflitti bellici sono stati debellati, eccetto una guerra tra virgolette simbolica che però l'essere umano segue con poco interesse, guerra creata per non dimenticare che la pace esiste. Una guerra tanto fittizia ma anche reale, tanto quanto lo sono i piloti a bordo dei velivoli, soggetti geneticamente modificati, senza un passato e con un incerto futuro, incapaci di provare la benché minima emozione. Presentato alla 65esima mostra del cinema di Venezia, il film di Mamoru Oshii ha un impianto narrativo malinconico, tempi dilatati al punto da sfiorare il surreale, comunicando questo stato di disagio alle giovani generazioni provocato da una vita incastrata in meccanismi senza senso e senza meta. Da Dall'Angelo Pictures, edizione DVD singolo, DVD doppio, ma soprattutto Blu-ray. Ed è proprio il Blu-ray da preferirsi in quanto il master impeccabile consente una visione d'eccellenza per un prodotto da riferimento. Doppia traccia audio ad alta risoluzione, ma c'è anche l'originale giapponese Dolby Digital. Come extra, un'intervista regista di 15 minuti e due focus sulla produzione da 30 minuti l'uno. Grazie Claudio, appuntamento fra 7 giorni qui alla Rosa Purpura per parlare di DVD. A presto, un saluto. E ci abbiamo quindi alla chiusura della nostra puntata della Rosa Purpura. Vi ricordo l'appuntamento, anzi prima ringrazio Filippo Aureggi in regia e Giorgio De Luca in redazione insieme ad Anita Panizza. Dicevo poi l'appuntamento per la prossima settimana, come sempre il sabato alle 18 e la domenica alle 15 nella replica della nostra ora di cinema, ma non dimenticate neanche il nostro bellissimo sito internet www.radio24.it dove potete anche scaricare in podcast la puntata della Rosa Purpura. Un saluto da Franco D'Assisti.